Sto caro mio, sto caro mio, si fosse di diamante. Sto caro mio, sto caro mio, si sarria spezzato a tanto dolore, quanto ne prova, quanto ne prova sempre a tutto l'ore, quanto ne prova, quanto ne però sempre a tutto l'ora. Sto caro mio, sto caro mio, si fosse di diamante. Sto caro mio, sto caro mio, si fosse di diamante. Sarria spezzata a tanto dolore, quanto ne prova, quanto ne prova sempre quanto ne prova sempre a tutto l'ora.